Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum. La Zanzara. Beh, caro Parenzo, ti chiederai come mai ho messo questa canzone. Beh, c'è una straordinaria chicca, mi senti o no innanzitutto? Ti sento perfettamente. Beh, io come al solito non sento un cazzo, partiamo bene subito. Ciao, grazie. No, non sento assolutamente nulla, ma siamo nella normalità, la zanzara, c'è la voce di David Parenzo, diciamo nell'80% dei casi, come mi è stato suggerito ieri da autorevoli ascoltatori della zanzara, non si sente, vabbè, pazienza, insomma, succede quello che deve succedere. Allora, ma ora mi senti o no? Ma sì, ma ti sento sempre un po' così, in maniera rocambolesca, a dir poco, come dire, avventurosa. Comunque, stavo dialogando con Cela. Sì, ma chi se ne frega? Aspetta, mi fai iniziare la trasmissione o no? Oppure devi raccontarmi, o c'è accanto a te, che ne so, Napolitano, no. Monti, oppure lasciami fare un ingresso, un'introduzione. Adesso abbiamo un parlamentare europeo oggi, nostro ospite, dunque cerchiamo di darci anche un po' un tono. Perché ti ho messo Brasil? Perché la nostra meravigliosa redazione ha pescato una chicca, un'intervista di Mimmo Scilipoti. Domenico Scilipoti in portoghese, in brasiliano, intervistato da una televisione brasiliana, perché lui è capo della delegazione parlamentare italo-brasiliana, cioè una cosa inutile naturalmente. Sentiamo. Para analisar as relações Brasil-Itália e o momento econômico europeu, o Diplomacia Entrevista recebe o deputado italiano Domenico Scilipoti, presidente da Associação Parlamentar Italia-Brasil. Questo governo non fu eleggito per il povero italiano, egli fu collocato là per risolvere alcuni assunti economici che a oggi non conseguimmo risolvere. Dove sei? Sei sprofondato, che hai fatto? senti ancora. E siamo al top già con questi ritmi. E io acho che questo governo dovrebbe essere sostituito per un governo legittimo, un governo eletto per il popolo italiano. Ancora. Ma da parte dell'italiano non tem pregiudizio nel confronto del povo brasileiro, perché il povo brasileiro è sempre un povo che l'italiano ama, che l'italiano asceria di fortificare mais un rapporto di relazionamento, no interesse di due paesi, Italia e Brasile. Beh, qui siamo al top, Domenico Scilipoti che parla in un brasiliano maccheronico e risponde alla televisione brasiliana dei rapporti tra Italia e Brasile. Che fai? Scusa, che fai? È una roba mortificante, tu ci ridi, ma è mortificante. È mortificante sentire la tua voce in questo modo. La Santanchè contro Marco Lillo, no. Lei è uno stronzo. Io lo trovo veramente scorretto. No, ma è corretto, ma è scorretto. Lei sta facendo un processo in diretta su una cosa dove io non c'entro niente. È scorretto. E lei sta parlando di intercettazioni che manco dovrebbero uscire, perché io non sono accusata di niente. Ma se non quella di lavorare nella vista, lei è uno stronzo. Lei... E vabbè, siamo messi così. La vicenda Formigoni con la Lega in subbuglio perché la base vuole le dimissioni di Formigoni. Poi la politica detta altri tempi. Formigoni, anche Maroni non vuole il voto a marzo, non mi ricandiderò. Questo è un punto decisivo perché secondo alcuni leghisti, anche importanti come Salvini, che è il capo della Lega in Lombardia, in realtà bisogna votare ad aprile. E Formigoni dice, Maroni non ha dato dei limiti di tempo. Sentiamo. Da domanda precisa, Maroni ha escluso di aver mai chiesto di andare a votare nell'aprile dell'anno 21, quindi noi riprendiamo adesso la prospettiva e la scadenza della legislatura 2015, come ho sempre detto, non intendo ricandidarmi. Facciamo la giunta e raddoppiamo i buchi, non cadremo giù. È sempre la nostra meravigliosa Barbarelle che stavolta si è esercitata su Formigoni, il quale dice: Zambetti ha giurato due volte di non avere pendenze. Sì, vabbè, non è che però bastano i giuramenti degli assessori di fronte al presidente, cioè, se bastasse solo questo. Di fronte ad una colpa molto grave, straordinariamente grave, di un uomo che fra l'altro mi aveva giurato due volte di non avere nessuna pendenza aperta, è meglio pensare all'interesse collettivo. Ma io sono il e infine, ma abbiamo tanta altra carne al fuoco, voglio farvi ascoltare Grillo su Cuffaro. Però uno può dire di tutto sul signor Cuffaro, no? Troppo facile. C'è una persona in carcere, è uscita per andare a visitare, credo, il padre. Non si può dire Cuffaro sembra uscito da una clinica del benessere. Adesso, francamente, tutto si può dire. È inumano. Ma inumano, adesso non esageriamo, però insomma, a che serve? A cosa serve? A cosa serve attaccare il signor Cuffaro adesso? A cosa serve? Cioè vanno in galera, dimagriscono, escono. Totò Cuffaro è uscito dalla galera, era un figurino, sembrava uscito da una clinica del benessere. Ma che cazzo sta succedendo? Paghiamo noi 300 euro al giorno per mantenerli in galera? E cosa bisogna fare? Deve andare in galera oppure deve essere condannato a morte perché non lo dobbiamo mantenere? Signor Grillo, su, va bene tutto. Va bene tutto. Abbiamo con noi in collegamento dall'aldilà, come al solito, dall'aldilà, meraviglioso collegamento con l'avvocato. Beh, l'avvocato che in questo momento buio per l'Italia, in questo momento triste per diverse regioni che spendono troppo e con tante indagini, ci dice la sua... Anche nel posto in cui, anche sul posto che ogni tanto lo chiama qui da Radio 24. Avvocato, buonasera, come sta? Buonasera, Cruciani. Devo dire che l'altro giorno, parlando in una seduta spiritica con Giorgio Squizzi, sì, mi è venuto da dire: siamo veramente caduti in basso, perché la radio di Confindustria, condotta da dei cialtroni come voi. Ma come cialtroni? Dei personaggi inqualificabili che raccontano barzellette nel tempio dell'economia italiana. Minori dici. Scusi, ma chi ha risposto Squinzi a questa cosa, avvocato? Non me lo ricordo. Qui in paradiso si dimentica tutto, anche quello che si è fatto in terra. Gabriele Albertini, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Vedo che mi proponete giustamente un secondo lavoro, visto che non si sa che cosa succederà. Beh, lei un lavoro primo. Ce l'ha fino al 2014. Il Parlamento europeo, essendo Parlamento europeo. Il pensionamento per i deputati europei scatta dal 63esimo anno, quindi farei un anno da pensionato operoso. Vabbè, scusi, ma lei è già pronto tanto, no? Presidente! Sì, ma di una bocciofila magari, potrei anche essere. Ma accetterò, insomma, presidenze di una bocciofila. Lei vuole fare il governatore della Lombardia, lo dica apertamente. Le piacerebbe molto, però le piacerebbe, questo si può dire che le piacerebbe? Devo dire che non ci tengo, né ci tesi mai, ma se me lo imploro di farlo posso provarci. Ma questo è l'avvocato, vediamo. No, sentiamo... Ma abbiamo le stesse iniziali, quindi potrei dirlo anch'io con la mia voce. Questo è vero. Però dico con la sua perché trovo più elegante. Nessuno la implorerà, che abbia però lo humor che ho conosciuto nell'avvocato da vivo, se ci ascolta. Assolutamente. Scusi un attimo però, Albertini. Lei deve dire sono pronto. Lei deve dire io sono pronto a fare presidente. Se me lo chiedono sono pronto. Ma questo lo dite voi, no. Perché lo devo dire io? Se se la sente di dirlo. Perché è così. No, le piacerebbe, perché le piacerebbe, dipende, non è un da molte circostanze. Vabbè, quello lo dicono tutti, su. No, non mi piace parlare di una situazione che è ancora in fieri, c'è un presidente in carica, sì. È come se lei chiedesse a un cardinale se vuole fare il papa mentre c'è. Non mi pare, non mi pare, è un po' diverso. Ecco, no, beh, è un po' diverso. Non è una cosa carina. Scusi, ma quando si deve votare, secondo lei? Beh, si deve votare alla fine della legislatura. Ma ci sono le condizioni per arrivare alla fine della legislatura in Lombardia? Beh, me lo ci dica sono delle grosse tensioni, c'è la Lega che è spaccata al proprio interno tra i movimentisti alla Salvini e i collaborazionisti, diciamo così, che poi sono uomini di governo. Sì, Maroni è un po' media, però per esempio sono convinto che gli assessori leghisti o le personalità di spicco che sono nel Consiglio regionale della Lega sono favorevoli a tenere una posizione più equilibrata, anche perché fosse per lei una giunta che è stata investita non da una inchiesta così, dalla questione dell'Andrangheta, può rimanere in carica fino alla fine della legislatura? Albertino, dica chiaro. Intanto mi devo correggerla, non è una giunta ma una persona della giunta. No, la cosa è molto diversa, perché qua si confonde la responsabilità personale di un assessore con quella di un governo. Ora non è la giunta, non è il Reggio Calabria, non è una situazione, c'è un caso increscioso, drammatico, sconcertante, oltretutto si può restare Zambetti, fino alla fine della legislatura. Zambetti, non so, non mi sembrava un minus ab, cioè una persona che ha una lunga esperienza politica, i suoi voti li ha sempre presi senza andarli a chiedere a nessuno, quindi, questo non lo sappiamo. O meglio, a chiederli agli elettori, dico io, perché mi sembrava da tempo, prima Democristiano, poi insomma. Però una scusi, cosa Albertini, però la domanda è chiara, secondo il lei caso si può arrivare Zambetti non è la ma come non è solo Zambetti, altrimenti non si sarebbe fatto il rimpasto se fosse solo Zambetti il caso, sarebbe sostituito un assessore, punto e basta. Evidentemente il caso è politico e più ampio. La domanda è questa, Albertini: si può arrivare ragionevolmente in questa situazione con diverse inchieste aperte, noi siamo tutti garantisti, fino alla fine della legislatura, sì o no, secondo lei? Beh, allora, ci sono due scenari. Uno è quello, diciamo, della speranza o del desiderio. Io naturalmente propendo per la mia prima risposta. Sì. Poi c'è, diciamo, una razionalità, una valutazione più, chiamiamola, realistica. Realisticamente con queste tensioni interne e con un alleato importante. In regione non conta come in comune, quando la Lega fece addirittura nel mio caso, aveva un assessore, Mimmo Pagliarini, abbiamo avuto qualche motivo di conflitto, ritirò. Razionalmente non si può arrivare, dice lei. In regione la Lega fa la maggioranza. E quindi non lo so, io non credo che ragionevolmente possa finire, però non credo neanche che si vada a votare insieme alle politiche. Benissimo, traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, il presidente in pectore della Regione Lombardia, Gabriele Albertini, risponderà tra poco alle nostre domande. Sto scherzando, al massimo candidato, perché poi è complicato, non è mica sono come sono sempre affermazioni, non è mica, che io ascolto rispettosamente, non è mica ma che come, non commento. Non è mica come 2-3 anni fa, che i voti del centrodestra sono scontati in Lombardia. Mano alla Lega, non vi dimettete, stiamo uniti, sì. Eccoci qui, 800 24 00 24, non ci ha ancora abbandonato l'avvocato che ci guarda dalla sua, anche se ha parlato male di noi al signor Squinzi. Avvocato, senta, ma Marchionne sta combinando un casino, ne dice di cotte e di crude su Firenze, contro Renzi. Che giudizio dà lei del suo, diciamo, chiamiamolo così, successore, anche se non è vero, perché quella era la proprietà, avvocato? Ma Marchionne lo trovo un eccellente contabile, è un grande manager, però non voglio dire che ce l'abbia troppo duro, ma certo è lui un po' troppo duro con gli altri. Ah, ce l'ha troppo duro, dice lei. È un vero metalmeccanico, acciaio al tungsteno. Acciaio al tungsteno. Hai capito? Sì. Vabbè, Alberti, risente una cosa. Un po' spigoloso, ci vorrebbe un po' di gomma, magari, qualcosa per fare meno scintille con la CGL, con tutti. Avvocato di panna montata, vorrei richiamare il mio esempio. Beh, questo avvocato anche dall'aldilà, insomma, chiacchiera come un pazzo, eh. Albertini, ha sentito Albertini l'avvocato? Cioè, comunque è vispo ancora, vispo dall'aldilà. Senti una cosa, ma qualche ricordo rimane ancora. Scusi, nel paradiso della carne e dello spirito stanno insieme le due cose. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io voglio chiedere ad Albertini. Ciao Davide, ciao. Sì, ti sentiamo poco, però va bene lo non stesso. Non ti ho ancora salutato, ciao. Grande Albertini, ciao. No, anzi, presidente, governatore. Parla più forte, collegati meglio, non sentiamo niente, non mi far arrabbiare, dai. Chiedo ad Albertini, ma questo partito degli onesti Il punto è qui. Niente, perché... non riesco a capire dove sta. Va bene, il partito degli onesti, cioè il problema è questo. Lei si vergogna di questo del PDL in questo momento con tutti questi scandali? Mi dica la verità, da Fiorito, adesso questo signore, Zambetti, eccetera. Un po' c'è da vergognarsi, me la dica tutta. Beh, indubbiamente ci sono molti casi che imbarazzano, però non siamo purtroppo, lo dico per il paese, è un partito un po' di ladri, non o no? Non siamo soli, però, perché prima di venire qui, sapendo che mi avreste fatto domande di questa natura, ho fatto un piccolo sondaggio e sono 35 gli arrestati, sì, del centro-sinistra in tutto il territorio nazionale e 400 sottoposti a indagini per reati gravissimi. Beh, il centrodestra non so, però insomma 35 arrestati e 400 indagati non è una piccola entità. Cioè, dice... Il caso di Vendola, faccio un esempio, sì, visto che si tratta di un governatore, giudizio, cioè... no, con due assessori, sì, arrestati. Non ci sono casi e dopo di 7 anni, di chi non no, però, è organizzato. Appunto, ma neanche in presidente, per il governatore, diciamo. Neanche per il governatore. Sono 7 anni di governo e ha già questa situazione. Beh, il buon Formigoni è quasi 20 anni, insomma, vediamo. Scusi un attimo, ma il PDL... Il confronto mi sembra molto, molto poco pietoso, insomma, nei riguardi... Molto, cioè, poco corretto. È peggio, sta messo peggio Vendola di Formigoni? No, sto dicendo che la severità che viene applicata al governatore dell'ottavo PIL d'Europa con un bilancio come non la viene Germania non viene applicata a un altro governatore che ha un PIL come la, che ha un bilancio come la Grecia, che in 7 anni ecologista non ha risolto il caso Ilva, tanto per fare un nome. Cioè le responsabilità politiche di governo, cioè, sono molto più gravi, quelle giudiziarie non sono da meno e concorre liberamente per la leadership del centro-sinistra. Allora io dico, benissimo, siamo generosi con Vendola, ma perché dobbiamo essere così severi con Formigoni allora? Beh, insomma, ci sono un'altra serie di inchieste, una serie di cose. Beh, il PDL, che non riguardano lui. Il PDL è un marchio che porta ormai finito, che porta anche un po' sfiga, secondo lei? Beh, il PDL indubbiamente si è ridimensionato di 2/3. Porta sfiga o no? Questo, lei mi vuole fare dire, possiamo, chissà perché mi viene da dare del lei... A Cruciani, forse perché qui davanti, allora devo assumere un ruolo, mentre do del tuo a Parenzo che è lontano. Siccome fuori di qui ci diamo del tu, possiamo anche continuare a darci del tuo qui. Gabriele, senza finzioni. È finito o no questo marchio del PDL? È finito, porta sfiga, diciamo, ha portato sfiga. Questo si può ma dire che ha portato sfiga. Indubbiamente non ha avuto fortuna, perché si è rotto subito dopo la fondazione. E poi, ma a me viene in mente la prima volta che ho sentito uno dei nostri coordinatori. Sì. Nazionali Verdini che in un intervento a Milano la prima volta che lo ascoltavo parlava dell'APDL e dico, ma forse perché è toscano, non so, le viene l'APDL, c'è il finale in L, e l'aveva reso femminile, invece è il popolo della libertà, la storpiatura, l'APDL, la storpiatura del nome era un segno, insomma, che era qualcosa che forse non era nato bene, ecco. La Russa è con noi, buonasera la Russa, uno dei coordinatori. Che succede in Lombardia, la Russa? Ma ho detto a Danielina, tu lo devi mettere sul palo questo Zambetti che ci sta scassando tutto qua, lo devi aggredire, tu che sei così aggressiva. Ma quello è in carcere, la Russa, scusi, è già in carcere. Ed anche bisogna isolamento perpetuo, gli F-104 tutti, bisogna, ma i mezzi Lince soprattutto, bisogna metterlo in un mezzo Lince e chiuderlo dentro, in Afghanistan deve andare. In Afghanistan, Zambetti, vai in Afghanistan. Ma vai in carcere in Italia adesso, vabbè. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24. Voglio subito qualche ascoltatore. Parenzo, ci sei o no? Certo che ci sono. Niente, stasera va così, c'è poco da fare. Mario da Padova, buonasera. Ma non mi senti ora? Sì. Mario, dica, no, ti sento male. Mario, io devo passare tutta la sera con questa pena, con questa disgrazia. Mario, cosa devo fare? Sto parlando? Sì, Mario, lei può parlare tranquillamente, si dica. Sì, buonasera a lei e complimenti ancora, siete in gamba tutti e due. Vada. Io volevo dire una cosa semplicissima, con questi giornali che ogni mattina ci portano qualche ladro di turno che ha rubato la grande e fatto man bassa, mi viene da ricordare un vecchio detto nostro padovano, che glielo dico qui in dialetto veneto e che spero che lei ne faccia uso poi per fare sì che arrivi o a Monti o al famoso Bondi che sta tentando di tagliare le spese. Bondi. Il motto dice semplicemente, io lo dico in dialetto così... Lo dica in dialetto che ci piace. Sì. Dove vede zucchero, vede i mosche. Tira via il zucchero che i mosche muore. Senza lo zucchero le mosche muoiono, questa? Sì, concetto è lo zucchero. Cioè, lei dice quello che io sostengo da tempo, cioè affamare la bestia, togliamo i soldi e i politici se ne andranno. Cioè, comunque, e la cattiva politica può avere una severa bastonatura. Mosche, e queste mosche, che sono quelle che continuano a girare attorno, muoiono o ritornano da dove sono venute, cioè nella merda, mi scusi il tempo. Vabbè, adesso lasciamo perdere la merda. Però Mario, lei ha ragione, bisogna affamare la bestia, togliere il finanziamento pubblico ai partiti, togliere il finanziamento pubblico ai partiti, togliere la possibilità di spendere soldi nostri senza controlli. E siccome i partiti si sono dimostrati ingordi da questo punto di vista, se non addirittura malavitosi in alcuni casi, e allora bisogna ricominciare da capo. Per ricominciare da capo bisogna chiudere col finanziamento pubblico, chiudere i rubinetti, affamare la bestia, come diceva una volta il signor Reagan. Affamare la bestia significa togliere i soldi ai partiti. Dopo possiamo studiare un altro metodo, il 10%, solamente la campagna elettorale finanziata, sempre dimostrando con le ricevute che tu hai fatto quella manifestazione, che tu hai pagato certi manifesti, ma non soldi a babbo morto come avviene adesso. Abbiamo i titoli del TG3, sentiamo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Cortei di studenti e docenti insieme per la difesa della scuola. A Roma carote al Ministero, blitz alla sede dell'Unione Europea. A Milano occupato simbolicamente il Pirellone. Formigoni punta a restare fino alla fine del mandato. La Lega divisa tra il via libera al governatore e il voto in aprile, ma la base è in subbuglio. Nel Lazio il ministro Cancellieri chiede tempi rapidi per le elezioni. Non risponde al GIP l'assessore Lombardo Zambetti, arrestato per associazione mafiosa. All'Unione Europea il premio Nobel per la pace ha contribuito alla pace e alla riconciliazione, per la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Napolitano sulla legge elettorale. Bene l'avvio della discussione in Parlamento, no a grandi coalizioni poi incapaci di governare. Auspico il massimo consenso. La questura denuncia per resistenza e oltraggio la zia e il nonno del bimbo conteso fra i due genitori e il governo si scusa per l'intervento della polizia. E a Napoli 40 minuti di pioggia trasformano la città in un'enorme piscina. Strade come fiumi, gorghi nella metro, polemiche sulla manutenzione delle fogne. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Punturina Vendola, signor Vendola, che ha detto? Giudica Brunetta un uomo bruttino. Senti il paragone che ha fatto. Loro hanno propagandato un'immagine femminile fatta di bieca strumentalità e di violenza. Era la donna che doveva essere selezionata in Parlamento a seconda delle proprie caratteristiche di attrattività estetica, perché come sapete la regola non valeva per i maschietti, che ne abbiamo visti di notevolmente antiestetici, no? Il governo Berlusconi non si sarebbe composto se la regola della bellezza valeva anche per Brunetta, per esempio, o per qualcun altro. Beh, lui fa lo stesso rimprovero, fa un rimprovero al centrodestra di scegliere le belle piuttosto che le intelligenti e poi sostanzialmente insulta Brunetta dicendo che è antiestetico. Una cosa incredibile, eh? Parenzo, che dici tu? Vabbè, è una battuta, dai, adesso. Sì. Beh, non fa mica il comico Vendola, Cioè... No, ho capito, adesso... Va bene, allora va male, allora ha detto una cosa giusta, bravo. No, difendi, ma difendi. È sempre sgradevole. Difendi sempre... Vendola anche in questa cosa, difendilo. Ma difendilo. Non lo difendo, ma avesse detto Verdini, ad esempio, nessuno si sarebbe indignato, perché è una battuta... Giustamente, su Brunetta c'è Remore a fare delle battute... E questo ovviamente è politica. Vabbè, una battutaccia, ma abbiamo in collegamento, cambia telefono, abbiamo in collegamento Giulio Tremonti che ci spiega finalmente in che cosa consiste questo suo nuovo partito, movimento. Tremonti, buonasera. Buonasera. L'Italia ha bisogno di leader. Beh, ho capito. E finalmente con 3L, cioè tre volte un leader. Come tre volte un leader? Chi vi parla è stato ministro dell'economia, uno dei menti, delle menti più brave d'Europa. Vabbè. Che vuol dire 3L? 3L, tre leader, perché io sono tre Monti, il sillogismo è questo, c'è Monti che è un leader e fa il presidente, il premier. Sì. Io sono tre Monti, 3L, tre leader, tre volte leader, e votatemi. Abbiamo capito. Il sillogismo, perfetto. Finalmente abbiamo capito tutti. Insomma, 3L significa triplo leader, leader al cubo, come si sente Tremonti, giusto Tremonti? Un vero genio, anche belloccio. Anche belloccio lei si sente? Le donne mi desiderano. Assolutamente, è vero? È vero, anche loro, tutti. Una cosa incredibile, cioè confessioni a cuore aperto di Tremonti, le donne mi desiderano, 3L significa leader al cubo, come mi sento io, beh insomma, cose importanti. È il mio programma. Allora, 800 24 00 24, invece Gabriele Bertini vorrei chiedere questo, ma questa telefonata, perché Alfano non la fa la Minetti, telefonata definitiva? Cioè per farla dimettere. Se l'ha detto in pubblico, credo che una telefonata in privato gliel'abbia fatto, consigliandole quello che... Lei dice di no. Quanto la fa vergognare? Lei crede di più ad Alfano o alla Minetti in fatto di telefonate ricevute o fatte? Ma questo tema. A nessuno dei due, francamente a nessuno dei due. Visto che Alfano l'ha dichiarato in pubblico di aver fatto una telefonata... No, non ha detto di aver fatto una telefonata. Ha detto in pubblico alla Minetti di dimettersi, che sono due cose diverse. D'accordo. Allora, diciamo che la telefonata è meno, da un punto di vista dell'impegno pubblico, appunto, della lei vuole una telefonata. Lei vuole una telefonata, è un incontro privato, una telefonata privata. Un incontro privato magari potrebbe convincerla che non va bene che non si dimetta, date le sue grazie o le sue arti. Forse Alfano non vuole rischiare problemi con sua moglie, magari. Questa non potrebbe è male. Essere, no? Cioè, sarebbe poi... rischioso. No, non sento più. No, sarebbe rischioso per Alfano un incontro, no? Beh, non so, posso immaginarlo, magari non l'ha voluto per questo e si è cautelato. Senta, non so. Albertini, ma mi dica la verità, in è Europa, una tentatrice indubbiamente, no, la Minetti è esteticamente molto attraente. Quanto la fa vergognare la presenza della Minetti al Consiglio della Regione Lombardia? Lo dica chiaramente, moltissimo la fa. No, adesso non esageriamo, la vergogna è un argomento che può essere forse applicato per altre situazioni ben più serie e ben più cosa gravi. Cosa le ricorda di questa la Minetti? Quello che credo sia doveroso dire è che certamente non era da candidare, ma non lei ma anche altri in un listino bloccato senza avere, diciamo, il credito di un'esperienza una politica. Grave responsabilità di Berlusconi, diciamo la verità. Beh, io non so lui. Chi l'abbia veramente candidato, però è probabile che sia così. E dunque una grave responsabilità di Berlusconi averla candidata, questo si può dire. Sono delle scelte che alla fine si sono rivelate delle scelte che non sono state appropriate. Felici, perché hanno indubbiamente creato dei problemi. E secondo lei perché è stata candidata la Minetti? Come? Qual è il motivo per cui è stata candidata la Minetti secondo lei? Il vero motivo? Una relazione di grande simpatia e di confidenza con il premier, penso che fosse questo. È normale nei partiti carismatici che ci sia questa simpatia. Figura. Sì, faceva parte della corte, dice la Minetti, faceva parte della corte dell'imperatore, si può dire questo, no? Beh, io non conosco i dettagli di questa situazione, no, però credo faceva parte della corte prima della conoscenza diretta con Berlusconi non si fosse occupata di politica né e poi, avesse... E poi è entrata a far parte della corte. È un po' come... Diciamo che è entrata in confidenza con il leader e il quale ha ritenuto di... Ma lei se lo chiama l'imperatore aveva una corte, tutti gli imperatori hanno una corte, di questa corte faceva... Se vuole dire questo io l'ascolto e posso anche convenirne, però non l'ho detto io. Se ne conviene o non ne conviene, non ho capito. È d'accordo o no che faceva parte della corte? Voi volete farmi finire nelle segrete di Arcore. Ma ormai non ci sono più le segrete di Arcore. Non ci sono più, no. Non ci sono più, ormai non conta più niente. Guardi i sondaggi che mi ha fatto vedere qua, mi ha portato un sacco di sondaggi. Berlusconi è crollato nei sondaggi miseramente. Come gradimento. Ma che concorrenza, che è crollato. Senti, un'ultima cosa le voglio dire ad Albertini, ma è vero o no che in Europa, insomma, la vostra reputazione come parlamentari europei, come italiani, da quando non c'è lui è cresciuta, me lo dica questo. Guardi, faccio rapidissimamente con un episodio, con un esempio, perché è molto più efficace che un concetto. Quando è venuto il presidente Monti a fare il suo intervento a Strasburgo, ero seduto al mio seggio, di fianco avevo il presidente della commissione budget, un deputato francese, Lamassoure si chiama, che è stato anche ministro in un governo di centrodestra, ministro dell'economia, è stato interrotto 7 volte da applausi mentre esponeva il suo pensiero. Vabbè, la domanda è un'altra, è migliorata la vostra reputazione, sì o no? Mi lasci finire e le rispondo con la conclusione dell'episodio. Alla fine l'intero Parlamento si è alzato in piedi e l'ha applaudito per circa 30 secondi e questo deputato mi ha detto... sarebbe un meraviglioso commissario europeo. E devo dire, ho provato orgoglio di essere italiano. Ho capito, ma la domanda però era un'altra. Monti ha la reputazione, questo lo sappiamo, e lei ci ha dato adesso un esempio di questa reputazione. La vostra reputazione è migliorata all'estero da quando non c'è più Berlusconi, sì o no? La nostra reputazione ha avuto nell'esperienza di Monti un grande apprezzamento dell'intero Parlamento. Com'è con 30 secondi di applauso. Com'è democristiano? Perché ha consigliato alla Minetti di andare da Tinto Brass? Beh, perché mi piacerebbe vedere il film. Ah, le piacerebbe vedere un film? Insomma, un film porno con la Minetti lo vedrebbe, no, lei? Beh, adesso Tinto Brass non è un pornografo, è un film. Però un porno con la Minetti lo vedrebbe volentieri lei? La troverei un'attrice appropriata per un bel film di Tinto Brass. Di Tinto non Brass? So, potrebbe essere Venere Callipigia. Ma per un porno vero e proprio, no? Beh, adesso è appropriato, mi fa dire delle cose che un gentiluomo non, vabbè, può, vabbè, non certo può rivelare, sono nei meandri però della sua coscienza. Però ha le fattezze per farlo, no? Avrebbe le fattezze per farlo, la pornostar. Beh, adesso questo non si può dire, mi sembra un po' troppo volgare esporre una collega, visto collega, che si occupa di politica, devo chiamarla così, collega, no? Grazie a questi, Gabriella Bertini, a presto, alla prossima. Buonasera a tutti. Eccoci qui, 19.35, siamo tornati in onda. Parenzo, abbiamo migliorato il collegamento oppure no? Non c'è. Mi ancora pare di sì. Sì, sì, qualche cosa, qualche cosina. Mi 80... pare di sì. Sì, stai calma. 800 24 00 24. Andiamo subito a sentire qualcosa, eh? Andiamo a sentire qualcosa di divertente, eh? Che sentiamo, eh? Santanchè contro Lillo, giornalista del Fatto, lei è uno stronzo. No. Io lo trovo veramente scorretto. No, ma è corretto, ma è scorretto. Lei mi sta facendo un processo in diretta, no, no, su una, no, cosa scorretto, dove io non c'entro niente. È scorretto. E lei sta parlando, no, no, di intercettazioni che manco nel dovrebbero senso, uscire. Lei c'entra nel senso perché che lei io non sono accusata attività, di niente, ma se non quella lei di lavorare nella lobbistica vita. Lei è uno stronzo. Lei è uno stronzo. Vabbè. Al signor Lillo, al signor Lillo. Non è un saggio da signora. Vabbè, considerazione banale, ma stasera ti vedo povero, molto povero di battute. Ma povero, ma non, ti pare? Non entri, ma non entri nella discussione, ci senti poco, vabbè, la solita cosa vergognosa. Franco da Monza, ma prima vi voglio far ascoltare che cosa? Un'intervista che abbiamo realizzato ieri sera, intervista per modo di dire, durante la premiazione delle cuffie d'oro a Trieste, con il signor Signorini, Alfonso Signorini, direttore di Chi? Insomma, uomo che molti considerano di potere all'interno di quella che una volta era la galassia berlusconiana. Signorini, cosa ci ha detto? Abbiamo recuperato l'audio. Chi ha voluto la candidatura della Minetti? Berlusconi, sentiamo. E chi è stata candidata la mia? Cioè, quella è la ragione vera, profonda. Ce della dica lei che sa tutto. Non è Berlusconi, no? Perché cioè, questa è una cosa che cioè, mi perché sanno tutti. Berlusconi fa bene a non ricandidarsi? E Berlusconi fa bene a fare un passo indietro, cioè dove lo vede bene tra un paio d'anni? A San Vittore, a nuotare nel... Ai giardinetti, a fare il nonno oppure... O a nuotare al largo dei Cigni, al Palazzo dei Cigni. Ovunque, purché non in politica, perché io stesso, cioè voglio dire... Non ne vuoi più di Berlusconi, non ne vuoi più di Berlusconi. No, no, non è che non ne posso più, per carità, però cioè, fa bene pipa, a riposare. È stata una pippa in politica. Ha già dato, questo Signorini... intervistato ieri dalle Due Zanzare a Trieste, Lucio da Verona. Buonasera Lucio. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Ma allora, io volevo sapere da un liberale come lei, sì, che voglio però che mi faccia il nome di un paese liberale, sì, dove un politico come Berlusconi, che ha perso due volte le elezioni, due volte si è dimesso, e nel silenzio totale di una stampa, sì, serva, non urla, ma vai a cagare, no, non c'è nessuno che glielo dice. Ma veramente è pieno di gente, Lucio, che glielo dice. No, nemmeno lei. È pieno di gente, ma io non gli dico vai a cagare, magari gli dico che non è più il caso di ricandidarsi e di lasciare spazio ad altri, se vuole gli dico anche vai a cagare, ma insomma, glielo dica lei, dato che sente questa irredimibile volontà di mandare a cagare Berlusconi. No, questo è un paese straordinario, dove l'impensabile degli altri paesi qui è una cosa normale. Può essere, può essere. Impensabile. E poi mi permetta di dire sulle mare di Renzi. Io, sì, ho i coglioni pieni di voi, liberali, liberisti di destra, che attendete di decidere chi deve governare a sinistra. La Santa Crea ha chiesto ai suoi elettori di votare per Guardi, Lucio abbia pazienza. Non è che uno è, di centrodestra a vita o di centrosinistra a vita. C'è gente che oggi vuole andare a votare per Renzi alle primarie del Partito Democratico e secondo me ha tutto il diritto di farlo. Bersani doveva far votare solo gli iscritti ai partiti, perché questa è un'aberrazione. Che io posso decidere il candidato di centrodestra, lo posso ma decidere che c'entra? Io, che sono di sinistra, io lo posso decidere? Allora non è possibile che un fascista decida chi deve governare a sinistra, ma è una cosa pazzesca. Ma che uno ce l'ha scritto, in faccia, ma che è fascista, non ho capito. Beh, perché la Santa Chè, secondo lei... Ma la Santa Chè mica ha dichiarato che va a votare Renzi, ha detto che gli piace Renzi per alcune cose. Ha invitato il suo... Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Ma non è vero, ma non l'ha detto lei, ma dove l'ha sentito? Ma non ha mai invitato nessuno del centrodestra ad andare a votare Renzi, ha detto che gli piacerebbe se vincesse Renzi, che è un'altra cosa. Lei non ascolta tutto, io sono un ascoltatore di 1000 programmi. Ma guardi, noi ascoltiamo 1000 programmi e non ha mai detto, a me non mi sembra, consiglio agli elettori di centrodestra, ai miei elettori, di andare a votare Renzi. Sarebbe stato comunque una notizia importante. Grazie Lucio, Eugenio, provincia di Brindisi, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Senta, io volevo intervenire sulle dichiarazioni di Albertini. Sì. Su Veneto. Non ma che ha detto Albertini su Veneto? Ha detto niente su Veneto. No, Albertini, così come il Celeste e tanti altri che intervengono in televisione, parlano sempre dei governatori e parlano di Vendola. Albertini non conosceva. Ah, lei dice su Vendola, sulle indagini di Vendola, eccetera. Vabbè, lui difende Formigoni e dice che Vendola è impicciato peggio di Formigoni. Sì. Ma il problema è la giunta, è diverso. La giunta Formigoni, o comunque il governo Formigoni, la Lombardia, dal punto di vista delle indagini, è messa peggio della Puglia. Su questo non c'è dubbio. Secondo Albertini, no. E che voleva dire allora? Non ho capito. Voglio liquidarlo dicendo che c'è stato un atteggiamento diverso di Vendola. Immediatamente l'ha mandato fuori, la caccia in culo gli assessori suoi, quelli incriminati, quei due o tre che l'ha mandato fuori. È un atteggiamento diverso da quello che fanno gli altri. Poi la cosa che mi interessa di più è sulla questione dell'ambiente di Taranto. Quando si parla, proprio ha dimostrato di essere un ignorante. Se a Taranto si parla dell'Ilva oggi, è grazie a Vendola. Vabbè. Per la legge sulla diossina. Vabbè, adesso lei vuole farci la propaganda per Vendola. No. Eugenio, grazie. 800 24 00 24. Ma insomma, il problema in questo momento è capire, caro Parenzo, cosa fa la Lega? Cosa fa la Lega in Lombardia? A chi lo vogliamo chiedere, secondo te? Formigoni. La Lega ha salvato Formigoni, mi pare evidente. Vabbè, questo adesso ripeti a pappagallo le cose che hai letto questa mattina sul giornale, va benissimo. No, ma questa è la notizia di oggi, cioè la Lega, che aveva la possibilità di mandare la Regione Lombardia a elezioni, ha salvato Formigoni. Poi facciamo tutti i commenti acutissimi che vogliamo, ma questa è l'unica notizia vera di oggi. Cioè quale? Ma veramente la notizia al massimo è di ieri, insomma, no? Comunque io lo voglio chiedere al capo della Lega in Lombardia, anche se poi la carica non è quella. Matteo Salvini, buonasera. Buonasera a voi zanzare. Parenzo ha bisogno di una piccolissima correzione. Che è successo di nuovo? La realtà però è più o meno quella che ha descritto lui, al di là delle mie ironie. Cioè dire, di fronte a quello che ha denunciato anche lei, la Lombardia, l'Andrangheta, non è un'inchiesta qualunque, alla fine avete deciso non dimettervi o comunque di tenere in carica Formigoni, sì o no? E poi c'è un'altra questione che è rimasta in piedi. No. Formigoni dice, è Maroni che decide, io ho un patto con Maroni, gli altri, Salvini compreso, non contano nulla. Maroni mi ha detto che non c'è una limite temporale. Dov'è la verità? Formigoni dovrebbe contenere la sua arroganza, innanzitutto. Perché? Perché un bel tacer non fu mai scritto. Invece di ringraziare Padre Pio di essere dov'è, continua a dispensare lezioni destra manca, non gli serve. Non gli serve e non gli sarà utile. Beh, però ha detto una cosa, io ho stretto un patto con Maroni. È vera questa cosa o no? Ma Maroni fa il suo mestiere nella miglior maniera possibile, rappresentandoci e tentando di capire se ci sono margini di manovra che temo non ci siano più. Non ci sono più perché votare, cosa? Scusami, Matteo, scusami. Per tenerli Formigoni. Non ci sono margini di manovra per tenerli Formigoni adesso? No. Non adesso. Ribadisco che il primo momento possibile in cui i cittadini lombardi potranno andare a votare sarà la primavera, di questo volevo informare Parenzo, che non possiamo andare a votare domani mattina perché la legge purtroppo non lo permette. Quindi il primo momento utile per andare a votare sarà molto probabilmente quello insieme alle elezioni politiche. Però scusami Matteo, è vero questo qua, magari sarà anche vero, non lo so tecnicamente, se me lo dici tu ci credo naturalmente, però uno si può anche dimettere. Assolutamente. Ma voi volete una riunione, noi abbiamo una riunione della Lega domani mattina non per parlare di farfalle o di funghi prataioli o delle castagne che stanno arrivando. No, ma certo, ma tu, la tua posizione è che si debba dimettere adesso oppure bisogna aspettare? La mia posizione, beh, io fossi in Formigoni mi sarei già dimesso. Non essendo io Formigoni non posso evidentemente scegliere il posto suo. Io ritengo, e domani mattina ne parleremo, quindi sì, la settimana prossima ci risentiamo, se la Lega avrà preso una posizione netta e decisa, Parento interviene, mi chiede scusa ai leghisti e dice bravi, perché io penso che il voto nell'aprile 2013 sia irrinunciabile e quindi se per arrivare a questo Formigoni non si dimettesse da solo, ma saranno i leghisti a doversi dimettere, i leghisti si dimetteranno. Ecco, questo è importante. Però io voglio capire un'altra cosa, Parenzo, coinvolgo anche te, che stasera ti sento poco, lontano. Ma voglio chiedergli una cosa. No, però questa è anche la posizione di Maroni? Perché questa è una posizione di cui discuteremo domani mattina. È la tua posizione, quindi allora? Non posso prevedere il futuro. E le dirò di più, le dirò di più, visto che è una scelta molto delicata, che non può prendere Matteo Salvini, non può prendere con la monetina, perché la Lombardia sono 10 milioni di persone, molte delle quali magari vi stanno fortunatamente ascoltando. Sì. Vi dirò di più, la Lega io penso che domani potrà prendere una decisione politica, in un contesto politico, ma a me piacerebbe che questa decisione venisse avallata e supportata da centinaia di migliaia di persone che avremo occasione di incontrare nelle piazze di tutta Lombardia il prossimo fine settimana. Avrete assessori o no? Ecco, questo è importante. Se ci dovesse essere un nuovo governo, come ci sarà in ogni caso, per quanto mi riguarda, la Lega non dovrebbe entrarci. Non dovrebbe entrare? Cioè, appoggio al limite, appoggio esterno? Ma neanche. E come neanche? Se non c'è l'appoggio esterno, allora che fate? Vi dimettete subito? Beh, è quello che le stavo dicendo. Se l'obiettivo è quello di votare nella primavera del 2013, ripeto, nonostante 15 anni di buona amministrazione, non siamo qua a rinnegare nulla di quello che abbiamo fatto, però quando si parla di 'ndrangheta e a quel punto ci si ferma e si fa un passo. Cioè la posizione di Salvini è quella delle dimissioni subito dei consiglieri regionali della Lega? Se non si dimette Formigoni, lo si dimette. Subito? Subito. Adesso, fra una settimana. Ho capito. Senza una nuova giunta. Senza una nuova giunta. Ma cosa fai? Una nuova giunta per andare a votare tra 4 mesi? Ci siamo, 800 24 00 24, prosegue la zanzara di questa sera, una settimana molto faticosa che ci ha portato però a Trieste, dove abbiamo intervistato Alfonso Signorini. Ieri abbiamo intervistato, per modo di dire, vero Parenzo? Cioè, lo abbiamo messo in mezzo e ci ha detto una cosa, ci ha detto che secondo lui, insomma, Berlusconi, lui che è insomma molto vicino alla famiglia Berlusconi come potete immaginare, Berlusconi fa bene a non ricandidarsi perché si deve riposare, addirittura deve lasciare la politica, così disse il signor Signorini. Da questo punto di vista molto vicino alle posizioni di Salvini su Berlusconi. Allora però qui siamo di fronte a una novità, cioè Salvini ci ha detto che la sua posizione, immagino sia quella di Salvini, che dopo verrà confrontata con altri nella Lega domani con lo stesso Maroni, è quella delle dimissioni subito, se non si dimette prima Formigoni, dei consiglieri regionali della Lega, giusto Salvini? Sì, l'obiettivo è votare il prima possibile, quindi ci interessa arrivare all'obiettivo di votare il prima possibile. Allora, c'è l'auricolare, c'è il viva voce, che c'hai Matteo? Sono fermo nel bagno di casa mia, che è l'unico posto dove non rompo le scatole al bimbo che guarda i cartoni. Vabbè, dunque la questione degli assessori non si pone, cioè che tipo di assessore, perché tu dici non dobbiamo nemmeno entrare in una nuova giunta, non c'è bisogno di fare una nuova giunta, giusto? No, e questo mi spiace, perché dopo 3 mesi di lavoro avevamo pronto un piano per ridurre i ticket sui farmaci, per aiutare le aziende agricole, eccetera, eccetera, e però, ripeto, a fronte, quando c'è un arresto per mafia, per 'ndrangheta, non è una cosa normale, è gravissimo rubare, già rubare è gravissimo, però quando si parla di mafia, e allora io non voglio la mafia in casa mia, Però sì, Salvini, voi siete al governo della regione, avete un consenso comunque in Lombardia consistente. Possibile che, è vero, si tratta di Zambetti, un esponente del PDL, possibile però che di come prendono i voti alcuni esponenti vostri alleati voi non sappiate nulla? Nulla di nulla? Ma guardi, io Zambetti l'ho incontrato fino a settimana scorsa e ci ho lavorato settimanalmente per la riforma delle case popolari, per le case popolari di Mugiano e del Gratosoglio. Le sembrava una... E non c'aveva l'alone viola come la pubblicità dell'AIDS che mi segnalava che aveva preso i voti. Vabbè, ma le informazioni si possono prendere anche in un altro modo sulle persone, no? I servizi segreti bulgari. No, siamo dotati di tale fiuto, sarò limitato io. Io posso vantare il fatto che appunto come leghisti, sempre da queste intercettazioni, emergiamo come cretini perché abbiamo perso il comune di Ro, perché abbiamo rifiutato i voti di questa gente. Ma su Saviano che insiste dicendo ho ragione io... Dice ho ragione io dicevo che c'era anche la Lega infiltrata, o comunque dicevo che c'era il Nord infiltrato dall''Ndrangheta, eccetera, eccetera. E allora, ribadisce di avere ragione lui, che ha avuto ragione lui. E devo dire che a parte la Lega, la questione della Lega non ha tutti i torti, perché insomma, voi fino a poco tempo fa questa questione dell''Ndrangheta, insomma, un po' la scansavate anche lo stesso Maroni, o no? No, ma Maroni l'ha combattuta a quei risultati, la mafia dell''Ndrangheta, non a parole. Quindi a me Saviano può piacere nel momento in cui scrive contro la mafia, chiunque si batta contro la malavita ha la mia stima. Nel momento in cui accosta la Lega all''Ndrangheta mi girano le balle a nome delle tantissime brave persone che la mafia la combattono tutti i giorni e rischiano anche la pelle per combattere. Però sulle infiltrazioni al nord aveva un po' di ragione, sì o no? Beh, ma neanche un palo della luce può negare che l''Ndrangheta ce l'abbiamo sotto casa, che stia comprando pizzerie, tabaccherie, locali notturni, palazzi. Beh, però non lo dicevate così forte. Prima, Salvini. La stiamo combattendo da 20 anni. Io ricordo un manifesto della Lega, non so se qualche ascoltatore... Qualcuno diceva che la mafia, l''Ndrangheta al nord non c'era, l'ex prefetto di Milano, e Maroni non diceva nulla all'epoca. No, il prefetto diceva che l''Ndrangheta a Milano magari non ha la coppola e non va in giro. Purtroppo c'è. Detto questo, perché c'è arrivata? Io ricordo che la Lega iniziò a combattere 20 anni fa contro l'invio in soggiorno obbligato di mafiosi. Ma non era solo il soggiorno obbligato, quei geni che pensarono di mandarli via da alcune regioni del sud, così li isolavano in Veneto, in Piemonte e in Lombardia, hanno trovato la genialata che invece si sono faticati pure qua. Però scusi Salvini, io le voglio chiedere una cosa, ma Saviano alla fine... lei non mi ha risposto su questo. Un po' di ragione ce l'aveva all'epoca. Fate il mea culpa sulle reazioni che avete avuto anche nei confronti di Saviano. Saviano ha ragione da vendere quando dice che la mafia è anche al nord. Ho capito, ma all'epoca avete fatto un ambaradam pazzesco contro di lui. Ma perché lui disse che questo era anche colpa della Lega, che la Lega era complice. Questa è una vaccata da querela. Ma lui continua a sostenerlo. Continua. Continua a sostenerle, allora vedremo. Mi porti una prova. Noi abbiamo decine di sindaci minacciati dalla malavita perché resistono alla malavita. Come si permette sto tizio di venire a pontificare in casa della Lega? La mafia c'è e ha ragione. Se si ferma lì e la combattiamo insieme, siamo amici e siamo fratelli. Anche Belsito ha avuto indagini e si ipotizzavano collegamenti con l''Ndrangheta, o no? Scaraventato fuori dalla finestra un minuto dopo. Beh, d'accordo, però allora le preoccupazioni di alcuni, compreso Saviano, erano reali, sì o no? Ma guardi, che la mafia si sia infilata ovunque e sia insospettabile. Qua hanno arrestato avvocati, dirigenti comunali, gente che lavorava nel volontariato, e purtroppo ne prendiamo atto e la combattiamo. Detto questo, la Lega in Lombardia significa 50.000 persone, significa 50.000 persone, di cui immagino 49.999 la Camorra e la mafia, l''Ndrangheta la combattono tutti i giorni. Allora, c'è da chiedere ancora una cosa, Salvini. Parenzo, ci sei? Certo che ci sono, ma adesso non è che può venirci a raccontare che Saviano ha esagerato, che Saviano non ha dato la verità, semplicemente perché è un simbolo molto molto ascoltato. L''Ndrangheta, Saviano dice una vacanza. Lui parla dell'accostamento tra la Lega e l''Ndrangheta. Vabbè, comunque, al di là di questo, Salvini, dopo Formigoni c'è uno della Lega, sì o no? Ma a me piacerebbe, se i cittadini votassero, sì, ammesso e non concesso che la democrazia sia ancora un diritto. Beh, no, adesso non esageriamo, si voterà per la Lombardia. Quei chiari di luna che ci sono dalle parti del governo Monti, ormai non mi stupirei più di nulla. Detto questo, visto che stiamo ben governando con i nostri tanti uomini in Veneto e in Piemonte, non vedo perché non potremmo farlo anche in Lombardia. Ma chi è uno dei, cioè, Maroni potrebbe farlo, cioè, è un candidato serio oppure no? Troppo presto. Maroni, penso che con quello che ha fatto, l'esperienza che ha maturato, potrebbe fare qualsiasi. No, sì, certo, questo non c'è dubbio, ma forse è meglio un altro uomo, lui si deve occupare più del partito. Cioè, voglio dire, state pensando già al dopo, a chi magari con... No. Stiamo pensando a domani mattina, stiamo pensando alle aziende che stanno chiudendo e a che fine far fare a Formigoni, che nonostante tutto va in giro a saltellare e a dire che non è successo niente, che si va avanti fino al 2015, cosa che mi sembra abbastanza irritante. No, dice anche che i leghisti non contano, conta solo Maroni, conta solo quello che dice Maroni. Maroni, no, quello che dice lei, quello che dice lei non conta, questo ha detto in sostanza. Dovrebbe imparare a conoscere la Lega, ma Maroni ha il pieno rispetto e il pieno sostegno di tutti, dal primo all'ultimo dei militanti, e poi la Lega è un popolo, è una comunità e si decide insieme, quindi forse a questo Formigoni non garba, però è un problema suo, non è un problema mio. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco. Como una muchachita, baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. Eccoci qui la zanzara, dopo l'intervento di Salvini, che mi sembra abbia messo, caro Parenzo, la parola fine all'esperienza di Formigoni. Adesso non è che uno si può tirare indietro troppe volte, no? Assolutamente. Cioè, perché c'è il gioco di Salvini, qualcuno dice che abbaia e poi Maroni che invece lecca. Cioè, no, ma infatti la cosa che non si capisce è quello che ha detto Formigoni oggi, cioè lui vuole fare una nuova giunta. Addirittura Salvini è andato a dire che non gli dà neanche la fiducia. Sì, appunto, per cui insomma le cose devono essere poi alla fine anche coerenti, altrimenti è tutto un gioco di parole, un gioco di posizionamento. Gianluca dalla provincia di Ferrara. Buonasera Gianluca. Sì. Ciao, buonasera. Dica. Volevo chiederti una cosa, Cruciani, ma tu sei sempre così poco pacato con le persone che chiamano. Sì. Ma non è vero, con lei sono pacatissimo. Con lei sono pacatissimo. E invece con Salvini hai avuto un tono. Che tono? Che tono? Scusi. Sì. Però con le altre persone invece, con Salvini invece sei stato sempre così discreto. Discreto che cosa? Discreto cosa? Le ho fatto delle domande per avere delle notizie. Lei capisce la differenza? Sì, capisce la differenza? Fastidioso. Sì, assolutamente. Ah, sì. Bene, se ha capito la differenza, allora stia zitto, non dica stupidaggini. Vabbè, comunque, complimenti. Grazie. Paolo da Macerata. Pronto? Dica Paolo. Sì, buonasera signor Cruciani. Volevo intervenire riguardo all'intervista che ha fatto ad Albertini. Sì. Lei le ha chiesto se si vergognasse di sedere accanto alla Minetti. Secondo me dovrebbe vergognarsi di più a sedere accanto al presidente della regione Lombardia, Formigoni. Infatti non siede nemmeno accanto a Formigoni, come non siede accanto alla Minetti. Che ha falsificato mille firme per essere eletto. Io credo che la magistratura di Milano, invece di preoccuparsi di rubi eccetera, dovrebbe preoccuparsi di questa cosa che è fondamentale, che illegalmente esiste la giunta regionale lombarda, che non dovrebbe stare lì, dovrebbe stare a San Vittore. Sì, è a San Vittore, certo, tutti a San Vittore. Un attimo solo. Squilla il telefono. Uomo o donna? No, è uno dei tanti scilipodi sparsi in tutta Italia. Grande sondaggio della zanzara. Però non risponde nessuno. Va bene, Giuseppe da Lecce, buonasera. Sì, Giuseppe, pronto, dica. Sì, con tutte le vicende riguardanti la Lega sono veramente clamorose. Sì, allora io vorrei solo non si sente niente, Gaetano da Napoli. Buonasera a lei, Cruciani. Vada. Allora, a Vendola rispondiamo che la bellezza è solo ricchezza. Non ho capito, scusi, a Vendola rispondiamo la bellezza è solo? È solo ricchezza. Ricchezza. Al giovane inesperto Salvini, diciamo che dopo le dimissioni di Formigoni, sì, in Piemonte e in Veneto non durano nemmeno una settimana e col PDL a zero sotto ma zero. Il PDL non ha il coraggio, è il con chi si alleano, caro Cruciani, ho capito, ma lasci perdere le alleanze, cioè, che quando prende il 51% in Piemonte e in Veneto, Ho capito. No, non ci arrivo, cadono subito. Il PDL è talmente messo male che figuriamoci, sì, siamo se perde al 10% a volta al 5%. Stiamo noi, chi? Lei stiamo? Siamo finiti. Non è questo il problema. La politica cambia. Sì, no, Gaetano, il punto fondamentale è che messo come è messo il PDL, certo non ha il coraggio di fare cadere le giunte Cota e Zaia, dove ci sono assessori del PDL, eccetera, eccetera, cosa che non avranno mai più, chissà per quanto tempo. E chi se ne importa? A lei non importa, cambiare. Quelli che stanno lì importeranno. E bisogna cambiare il casino non è bucato. Allora, invece ad Albertini vorrei dire una cosa molto semplice: l'uomo della sua esperienza, delle sue capacità, fare l'assessore in questo momento per Formigoni e per sostenere la giunta e poi candidarsi alla presidenza è l'ideale per le sue è tutto finito, quale fare l'assessore per Formigoni? Pare uno fa l'assessore per Formigoni e poi si candida a presidente della regione. Cruciani, ma ho capito, ma è tutto finito lo stesso. Non c'è dubbio. E allora, ma che fa l'assessore? Vabbè, esiste l'opportunità, guardi, politica. Trasferirò il suo consiglio al signor Albertini. Gaetano, grazie. Giancarlo da Milano, buonasera Giancarlo. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, volevo solo dire che Salvini predica bene e razzola male. Io stasera voglio eliminare tutti quelli che si sentono male. Giacomo dalla provincia di Firenze. Io ti avrei già eliminato da un pezzo se non fosse che purtroppo devo fare questo collegamento e anche se si sente male, perché è veramente una cosa incredibile, ma non è colpa tua, eh. Giacomo dalla provincia di Firenze, buonasera. Adesso do un altro nome. Dica. Signor Cruciani, buonasera. Lei non so se è al corrente delle affermazioni irriguardose del signor Marchionne nei confronti dei fiorentini. Oggi ha fatto, certo che sono al corrente, 3 giorni che ne parliamo, Giacomo, ecco, abbia pazienza. Beh, no, io purtroppo negli ultimi giorni non ho potuto ascoltare. No, ma in generale se ne è parlato dappertutto. In ogni caso oggi ha fatto marcia indietro Marchionne dicendo che... Bene, mentre fa marcia indietro, che sì, con la Fiat non so nemmeno se entra la marcia indietro, visto le macchine di merda che produce, gli potrei... come dire di andare a cagare al signor Marchionne. Ma può anche dire questo, sì, perché ecco, no? Grazie, la ringrazio per l'occasione che mi ha concesso. Bene, grazie a lei. Eros da Milano, Giacomo da provincia di Firenze. Il numero dove chiamarmi, scrivi. No, lo dai dopo il numero, Eros da Milano. Avete, eccomi qua. 3. Un attimo. Pronto? Sì, buonasera, casa Scilipoti? Sì, chi parla? Buonasera, cerchiamo il signor Mimmo Scilipoti. No, non siamo noi. Ah, non siete voi, mi scusi. No, mi sono, un altro. Ci siamo sbagliati. Non ho nessuna indicazione in proposito. Non ha nessuna indicazione? No, perché i parenti di mio marito, tra i parenti di mio marito che conosciamo, non c'è nessuno con questo nome. Non c'è nessuno, no? Lei non è parente di Mimmo Scilipoti, il politico? No, ma lo conosce lei? Lo conosce? Lo conosco per televisione. Per televisione, ma come, qual è la sensazione di avere lo stesso nome? Sono curioso, lo stesso nome di Scilipoti. Mio marito dice che finalmente da quando c'è il politico la gente non si fa ripetere 2 volte il cognome, perché prima dicevano come Cili. Ah, perché adesso lo conoscono tutti, cioè, ecco. La vita è più facile, dice lei. Ma lei non si vergogna un po', signora, di chiamarsi come... Ma adesso non andiamo oltre, non mi sembra il caso. Non le sembra il caso. Beh, la ringrazio molto, buona prego, serata, buonasera, signora. Grazie. A grande richiesta degli ascoltatori, le meravigliose, fantastiche, inarrivabili, diciamo la verità, interviste in brasiliano italiano, un brasiliano portoghese molto molto mancherorico di Scilipoti. Ogni tanto sento questa voce dall'oltretomba che arriva, quella di Parenzo. Non è dall'oltretomba perché ho anche cambiato telefono, quindi adesso è buono. Scatenati finalmente stasera, scatenati Parenzo, sei stato in sordina fino adesso, sei stato in disparte, ieri era pimpante, eri il numero uno ieri, questa sera sei deludente, Scilipoti, stai zitto Scilipoti. A moneta è un assunto molto importante per un paese e per un povo. Quando un povo perde la sovranità monetaria cominciano molti problemi, e questi problemi chi è che paga mai è un povo. Ma hai capito qualcosa o no? Mamma mia. Mamma, non sta, ma con chi stavi parlando? Ma perché io? Perché ho ancora Scilipoti? Perché adesso non ti sento, io ho cambiato telefono, però adesso non ti sento. Sentiamo Scilipoti. Ah, ecco, adesso sì, bravo. Non tenne nada di pregiudizio, anzi al contrario, quando si incontra un brasileiro e che un paio o avò stava, era italiano, stiamo felici di incontrare e stiamo con braccia aperte per ricevere. Ma l'esordio è eccezionale, sentite. Guarda, sembra un film di Lino Banfi. È presente il film quando Lino Banfi va con Andrea Roncato, l'allenatore del pallone in Brasile? Sì, sì. E dice: sono figlio del Lecce. Ah, dice: sei figlio di latte? No, di Lecce, perché è nato a Lecce. È uguale, sembra l'allenatore del pallone Lino Banfi in Brasile, uguale. Senti, senti l'esordio, non so se l'hai sentito bene prima. Rimettiamo no, l'esordio, no, sì, che è eccezionale. Fammelo risentire, sì, che è meglio. Grazie. Per analizzare le relazioni Brasil-Italia e il momento economico europeo, o diplomazia entrevista. Vista recebe o deputado italiano Domenico Scilipoti, presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil. Este governo não foi eleito para o povo italiano, ele foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. Scilipoti in brasiliano maccheronico, in un brasiliano portoghese maccheronico, una perla assoluta. Salvatore da Salerno, buonasera. Ecco, Salvatore. Buonasera Cruciani. Della Zanzara che hanno ritrovato questo reperto, ma per fortuna con le elezioni sì, tutto questo diventerà soltanto un ricordo grottesco. Grottesco. Beh, bisogna vedere, eh. Io spero di no, spero di no, altrimenti che famo qua? No, Salvatore, noi siamo giornalisticamente di no. Salvatore da Salerno. Buonasera, mi senti? Sì, la sento, dica. Allora, innanzitutto mi volevo congratulare con lei. E beh, io me ne frego. Con tutto con questa... Lei fa una satira, scusami, sono emozionato, una satira politica in diretta, sì, senza sì, copione. Senza è copio. Un prostattore, un fisico come Totò, nel senso che, non per disprezzo di io, ma come apprezzamento, perché lei con questi politici li punteggia. Sì. Mi fa cantare come l'usignuolo e poi dicono sempre le stesse cose. Lo sai che 65 anni, sì, 45 anni dicono sempre le stesse cose. È un copione, praticamente un copione vecchio, vecchio, che vogliono dire sì, e vogliono fare. Però alla fine vediamo sempre che nel 2012 siamo ancora nella merda. Va bene, benissimo. Meglio di prima e non dopo, dopo questo. Ho capito tutto, Salvatore, grazie. Eros da Milano, Eros. Ok, eccomi qua. Vado. Finalmente. Niente, io semplicemente volevo dire che cos'è che volevo dire? Sono stato mezz'ora, aspettavo, mi sono dimenticato. E che ne so dire. Io, ma adesso se non lo dico subito. Perché qua ogni volta che si propongono delle nuove elezioni spuntano dei personaggi nuovi, giovani, si propongono nuove iniziative, ma il tutto è fatto per poi nutrire alla fine sempre gli stessi partiti, io credo. Questo è quello che penso io. Quindi non so di cosa sta parlando, francamente. Come non so di cosa, non so di che si sta nuovi parlando. Personaggi che stanno presentando, no? Alle elezioni. Sì, noi, chi sono i nuovi personaggi? Questi nuovi personaggi. Ma chi? Che sono... chi? Ma questi nuovi, dai, Renzi e altri, no? Renzi, e allora? E quindi è tutto un teatrino alla ma fine. Chi l'ha, chi l'ha detto che è tutto un teatrino? Che lo dico io. Questo, lo dice lei, io, questo è il mio pensiero, ok? Benissimo. E sono sicuro che io non andrò mai più a votare in questo paese, perché se noi gli diamo sempre il consentino sì, di andare a votare, bene, non si conclude mai niente. È come se ci invitassero a una festa, bene, ma bisogna non andare, secondo me, per non diventare dividito. Va e bene. Allora probabilmente sì, i politici in questo caso potrebbero rendersi conto che nessuno più ha fiducia di loro. Dunque, l'unico modo per cambiare è non andare a votare. Bravo Eros. Così no, non, non è l'unico modo, è sì, un mi perdoni, sì, è un segnale forte che il popolo deve sì, dare, il popolo, sì, che non ha più credibilità nelle istituzioni. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Siamo qui, siamo qui. Andiamo a Maurizio, provincia di Treviso. Buonasera, Maurizio. Buonasera, volevo intervenire sulla sì, tua polemica su Grillo su Cuffaro. No, voglio dire una cosa invece sulla vicenda del bambino trascinato via dalla polizia e tutte le polemiche che ci sono in queste ore furibonde, caro Parenzo, su questa vicenda. Al di là degli aspetti, come dire, legali, la contesa tra i genitori, eccetera, mi colpisce un fatto, cioè, mi colpisce che i genitori, invece di discutere con gli avvocati, con gli operatori, con la stessa polizia, eccetera, vadano a spiattellare tutto in televisione, cioè a discutere tra di loro contesi da varie televisioni. Sì, questo l'ho visto a pomeriggio 5. No, ma le televisioni fanno il loro mestiere, da questo punto di vista, nulla da rimproverare, sì, per carità. Cioè, mi sorprende che i genitori vadano, che i genitori si sottopongano ad uno stillicidio di questo tipo in pubblico. Cioè, sono cose che riguardano i bambini, i ragazzi, se loro hanno a cuore la sorte, il destino, la salute, eccetera, eccetera, fisica e psicologica di questo ragazzo. Mi pare una follia questa roba. La smettono di andare in televisione a rompere le balle, cioè a romperci le scatole a noi con i loro problemi, che per carità saranno gravi, e la questione è diventata di dominio pubblico perché c'è stato quel video e perché c'è la polizia che strattona un bambino, lo trascina via. Punto e basta. Il video, peraltro, diffuso da una parte in causa, già su questo si potrebbe discutere, ma basta poi. Cioè, non si va in televisione a discutere di come fare col figlio, cioè non dopo una cosa di questo tipo. Dopodiché ognuno è libero di fare come vuole. Beh, una delle cose più brutte di questa vicenda è il fatto che proprio i familiari abbiano diffuso questo video. E vabbè, su questo io mi permetto di dire così. No, detto. Sì, poi, certo. Vederli nei talk show del pomeriggio che discutono della sorte del bambino, effettivamente, però poi sono scelte, cioè, sono grandi, maggiorenni e vaccinati questi genitori. Bravo. Quindi posso esprimere qualche riserva o no? Sì, esprimo qualche riserva su questo. Ma io penso che sia una cosa inumana. Io credo che sia un comportamento inumano. Dopodiché, se per loro questo è l'unico modo per anche per esorcizzare il dolore, che ne so, non entro nelle dinamiche psicologiche delle persone, certo, sono certo. Grandi e vaccinati, il fatto che abbiano diffuso quel video, sì, lo trovo aberrante, però grazie. No, grazie a chi? Pensavo fosse un ospite. Sei tu, Parenzo, questa sera mi stupisci, cioè non riesco a ritrovare lo spirito di ieri sera. Ma questo tema è troppo serio, non si può scherzare sul fatto di questo bambino, questa è una roba. Abbiamo con noi il coordinatore della campagna delle primarie di Renzi, Roberto Reggi, buonasera. Buonasera. Dov'è, in treno, Reggi? Purtroppo sì. Vabbè, ma noi lo sappiamo, basta saperlo e siamo a posto. Se cade la linea significa che è in treno. Scusi, ma le notizie che sono state date nel pomeriggio sulle regole già decise per quello che riguarda le primarie, sono vere, sono confermate? Cioè non ci sarà la possibilità per chi non vota al primo turno di votare al secondo turno? No, mi sono state anche smentite, mi risulta, ufficialmente. Sarebbe grave se ci fosse questa decisione su chi vota al primo turno che non può votare al secondo? Insomma, noi abbiamo detto la nostra posizione, l'abbiamo chiarita molto bene, insomma, noi volevamo le regole come ci sono sempre state, con un turno unico, quindi noi siamo rimasti lì. Adesso vediamo che cosa hanno elaborato, lo diranno domani i segretari. No, d'accordo, ma votare il, cioè, se fosse introdotto, al di là di quello che era la vostra posizione iniziale, adesso si va verso un albo di elettori, lasciamo perdere la questione della pubblicazione dei nomi. Sì. Su cui lei si è già espresso, pare che sia consultabile quest'albo degli elettori, il secondo turno è scontato, ma la questione principale resta una, che io trovo assurda per quello che mi riguarda, cioè chi non vota, chi non è registrato al primo turno non può presentarsi al secondo turno. Sembra questa una posizione su cui che può essere decisa anche domani. Voi continuate ad essere fortemente negativi su questo? Noi continuiamo a essere fortemente contrari, cioè, noi tutte le votazioni dove si vota secondo turno, di cui abbiamo esperienza, quella il voto ai, per esempio, è sempre libera al secondo turno, quindi sarebbe la prima volta in assoluto una cosa di questo tipo. Ma questa tipo. È una cosa fatta esplicitamente per fregare Renzi, cioè per mettere in difficoltà Renzi, se fosse introdotta una cosa del genere? Sicuramente lui non le godrebbe, diciamo così. Perché lei dice tra il primo e il secondo turno ci potrebbe essere altri 15 giorni, diciamo, o una settimana di campagna elettorale. Ma anche in gestione dal punto di vista tecnico, perché chiunque potrà andare al secondo turno presentando, che, non so, un certificato medico per dire che non ha potuto votare il primo, metterà in condizioni il presidente di decidere di volta in volta, creando situazioni di imbarazzo le file ai seggi, situazioni, come dire, difficili. No, però gestire. Pare che se fosse introdotta questa regola ci saranno solamente rari casi e rare eccezioni. Cioè lei perché dice ci potrebbe essere caos ai seggi? No, me lo immagino, mi prefiguro la situazione in cui io mi presento al secondo turno, ho avuto un mal di pancia al primo e non ho il certificato medico perché... Ma perché questa era una delle possibilità, scusi Reggi? No, non lo so, guarda, io francamente siccome al tavolo non ho partecipato non so neanche cosa dire perché diranno domani valuteremo. Ma che regola, se fosse introdotta, che regola, avete intenzione di fare qualche cosa se fosse introdotta questa regola, una qualche protesta di qualche tipo? Cioè... Noi abbiamo deciso, come è chiaro e evidente, che di rimanere partito, no? Perché è casa nostra questa, quindi no, ci certo. Atteniamo... quello che viene deciso dal partito per noi è chiaro che bisognerà rispettarlo in ogni caso. Faremo di tutto per cercare di convincere il nostro segretario, e quella è una, qualora fosse quella la decisione, non è una decisione che porta nella direzione da lui richiesta. Lui ha detto fate le cose per bene e fate le cose per portare tanta gente al voto. Una soluzione di questo tipo non risponde, non ottempera a questa richiesta. Parenzo, che dici? Ma io dico che anziché stare qui a fare in continuazione bubù su questa roba delle regole, combattessero a viso aperto la loro bella campagna, e poi voglio dire, gli elettori, se saranno degli elettori del centro-sinistra, se vorranno votare Renzi lo voteranno. Questa roba del secondo turno, puttanata, detta no, con rispetto. No, non è una puttanata, non è una puttanata megagalattica, perché se uno non va a votare al primo, perché deve andare a votare al ma secondo? Ma che significa, cioè, perché? Ma sei impazzito, sul serio? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma che dici? Ma se uno non si registra al primo, perché non può andare a votare al secondo quando poi ma ci sarà? Ci sono delle regole. Ma che c'entra? Ma le regole vengono decise a monte. Ci sono delle regole. Chi le ha decise queste regole? Sei impazzito? Ma nelle elezioni, intanto queste iniziative di partito, quindi non sono stabilite non c'entra, per legge. Ma io non ho capito per quale criterio tu pensi che al secondo turno quelli che non votano al primo non possono andare a votare. Non ho capito, secondo quali criteri? Me lo devi spiegare. No, mi devi spiegare tu, in base, perché intanto se uno vuole va a votare già dal primo turno. Ma se uno non vuole, non può, e invece gli interessa votare uno contro uno, perché non può andare a votare solo al secondo? Me lo spieghi? Ma va a votare al primo turno, perché non c'è. Ma uno non ci vuole andare invece, non ci vuole andare, voglio andare solo al secondo. Perché non ci posso andare? Secondo quale criterio? Mi pare un dibattito assolutamente inutile, totalmente inutile, totalmente. Ma che c'entra? Non è utile, ma di che stai parlando? Non è vero che è inutile, perché c'è un sacco di gente che magari è interessata a vedere uno contro l'altro. E non vuole andare a votare magari sei candidati diversi, e oppure uno aspetta alla fine vuole... Insomma, la cosa è molto più semplice di come la vuoi allambiccare tu, perché sei bravo ad allambiccare le cose, sei proprio l'uomo degli allambicchi. Ma non è... Se uno vuole, se uno aderisce al progetto delle primarie, perché di questo si tratta. Qui stanno decidendo un'altra cosa, lascia perdere se uno ha la filosofia, qui stanno decidendo un'altra cosa, la cosa che stanno decidendo è questa, è possibile o no andare a votare al secondo turno? No. Ma che no, chi? Ma secondo quale criterio no? Ma chi lo dice? Tu, David Parenzo, chi lo dice? Io e Pierluigi. Ma vai a cagare, vai, dai. Ma no, io adesso, a parte gli scherzi, c'è anche, mi pare una questione di logica. Cioè, uno aderisce al progetto delle primarie. Ma che c'entra? Le primarie hanno delle regole. Tra queste, ma le regole sono queste che le stanno decidendo. Ma che c'entra? Appunto. Che senso ha dire aspetto di vedere chi è la sfida e poi dopo... Ma forse non hai capito, ma qui si sta... Ognuno ragiona come vuole ragionare. L'elettore, se non vuole andare a votare al primo turno, va a votare al secondo turno. Non capisco perché non è possibile farlo. Mi dai una spiegazione logica di questo? Ma la spiegazione logica è che se uno aderisce al progetto delle primarie, se allora... ci aderisce dal primo turno, non dal secondo. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? A una manifestazione di partito? Reggi, risponda lei a Parenzo, io francamente non lo capisco. Ma no, perché si allambiccano su questa roba delle regole. Ma infatti tu, una battaglia, ma sei tu, voti, portano la gente a votare, arrivederci, grazie. Ma cosa c'entra? Io stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo dicendo perché non è possibile andare a votare al secondo turno se uno non è andato al primo? Perché uno si iscrive sin dal primo turno. No, uno invece non si vuole iscrivere al primo turno, oppure non ha avuto tempo, invece voglio andare al secondo, non perché non tempo. È possibile? Doveva iscriversi al primo. Doveva iscriversi al primo, che discorso. Ma è? Che vuol dire? Scusa, che vuol dire? Ma in Francia che c'è il doppio turno alle elezioni, non è che uno che non è andato al primo va al secondo. Ma cosa stai dicendo? Quelle sono decise per legge, ma che c'è? Ma che... è una cosa completamente diversa. Ma... questa è un'iniziativa io di dico, partito. Io veramente, guarda, veramente trovo logica. No, ma io trovo veramente che che non ci sia logica in quello che dici tu, ma come fai a sostenere una cosa di questo tipo? È una cosa... A me Renzi poi è anche simpaticissimo e penso che lo voterò anch'io alle primarie. Dopodiché però vado dal primo turno, non è che dico aspetto di vedere la sfida, cioè decido di aderire a questa iniziativa politica, perché è un'iniziativa politica, decido, vado fin dal primo turno e voto il nostro amico Renzi. Benissimo, ma non è che arrivo lì al secondo turno bello bello. Ma che c'entra bello bello? Ma in Francia, in tutti i paesi dove c'è il secondo turno, sono stabilite per legge. Ma non c'entra niente, qui è un principio, è un principio, è un principio. Vabbè. Marco da Bergamo, non ti voglio più ascoltare su questo, sei ridicolo. Marco da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Ma è ritornato Cruciani, Parenzo, È ritornato, sì, da mo che ma guarda che io praticamente non seguivo più dal momento che se n'era andato e boh, sarà contento. E vabbè, ma, pazienza, se ma, ne faccio una ragione. Ma chi ha vinto adesso? Ma chi ha vinto chi? Nel vostro dibattito fra Parenzo e te. Chi ha vinto? Ma non c'è nessuna, non c'è nessun dibattito. Infatti, anche per me non c'è nessuna vittoria. Votazione a due turni. Cioè... Vabbè, quello è un altro discorso. Hanno deciso di fare il doppio turno. Dopodiché, se uno non va al primo, non capisco perché non debba andare al secondo. C'è una cosa patetica, ridicola, senza senso. Cioè, totalmente senza senso. Cioè, non veramente non ha alcun senso. Cioè, è chiaro che tra un primo e un secondo turno in cui si candidano sei persone, un secondo turno in cui ce ne sono due, cambia tutto. E non capisco perché uno che non ha partecipato al primo non possa andare al secondo. Cioè, lo trovo veramente una cosa assurda, fatta solo ed esclusivamente per impedire a una grande partecipazione al secondo turno e dunque, secondo quello che si capisce, una vittoria di Renzi. Matteo dalla provincia di Bologna, buonasera. Guarda, buonasera che anche negli Stati Uniti. Dica. Velocemente, io sono un elettore del centrodestra, andrò alle primarie, spero di poterlo fare, del PD e voterò Renzi. Sì. Io concordo con chi poi si lamenta che noi non possiamo a volte interferire, però le regole erano queste. Quindi mi sembra assurdo che oggi come chi aveva ma lei fa benissimo prima a farlo. Lei dice sono un elettore del centrodestra, in realtà non è che ce l'ha stampata in fronte, ha votato spesso centrodestra, immagino, no? Sì, delusissimo di Berlusconi. Benissimo, delusissimo di Berlusconi. Vuole votare Renzi, le piace Renzi. Renzi. E giustamente va a votare dica alle primarie perché non le impedinare di andare a votare. Si iscriva dunque. No, ma prima c'è stato un ascoltatore che ha detto il centrosinistra lo dobbiamo decidere noi candidati. Ma che c'entra? Ma non... No, ma infatti sono d'accordo con lei, che c'entra? Perché le regole fino ad oggi erano diverse. Se loro non vogliono che un elettore del centrodestra intervenga nell'elezione del candidato premio del PD, lo dovevano decidere 2 o 3 anni fa. Oggi c'è una regola e va rispettata. Ma no, ma la regola non c'entra, le regole si possono anche rifare. Il problema fondamentale è fare una regola che abbia senso. Cioè, tu vuoi impedire alla gente al primo e secondo turno di andare a votare e far votare solamente quelli che sono negli elenchi. Poi, tra l'altro, come si controllano questi elenchi? È un casino. No, ma il discorso è un altro. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. Le zanzare di casa. Eccoci, 20:36, 800-24-00-24. E beh, la notizia di stasera però l'abbiamo data noi, caro Parenzo. Cioè dire Salvini che ci ha detto che stacca la spina, in sostanza. Poi vogliamo vedere i fatti. Vogliamo vedere i fatti, non perché ci auguriamo le dimissioni di Formigoni, per carità. Però qui a questi microfoni, pochi istanti fa, ha detto una cosa molto precisa: lo cacciamo noi, se non si dimette lo mandiamo via. È arrogante, deve ringraziare Padre Pio che è ancora lì invece. Fa lezioni a destra e a manca. Ci sei? Sì, però non si capisce allora Formigoni che cosa ha promesso Maroni cosa ha promesso a Formigoni. Beh, è evidente che lì c'è stata c'è una guerra interna alla Lega, guerra, già, insomma una spaccatura. Salvini, vabbè, ma è normale in politica avere opinioni diverse, non è una cosa strana, cioè, ma che, stanno facendo dei calcoli, delle considerazioni che vanno al di là anche delle inchieste. Che facciamo? Stacchiamo la spina subito oppure no? Si può proseguire, gli assessorati eccetera eccetera. Mi pare che si vada, dalle parole di Salvini di questa sera mi sembra evidente che si va verso verso il ritiro della sfiducia da parte della Lega, mi sembra di capire. Mi sembra di capire che sicuramente non ci saranno assessori della Lega nella prossima giunta Formigoni. Cioè Formigoni proverà a fare la sua giunta. Io sicurezze non ne ho più. Questo sono sicuro, ci mette la mano sul fuoco, posso fare una scommessa con gli ascoltatori della Zanzara. Poi sicuramente non ci saranno assessori. Intanto della Lega. Continua a sentirsi male, è tornato a sentirsi male il tuo telefono. Va bene, Stefano dalla provincia di Firenze, su. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo parlare per un secondo, forse anche ma sulla questione di Firenze e Marchionne, per cogliere invece una similitudine tra Firenze e Marchionne. Firenze è una città eccellente per quanto è bella. Anche Marchionne è un personaggio eccellente per quanto è bello, che conduce, dirige un'azienda che produce macchine che sono eccellenti per quanto sono belle. Quindi alla fine cogliamo in questa polemica anche una similitudine tra le due. Oggi ha detto, dovrei spiegare qui, dovrei stare non so quanto tempo a spiegare l'importanza, la bellezza di Firenze, le parole erano fuori contesto eccetera eccetera, però il fatto è che la pronunciate quelle parole lì, magari in un attimo di rabbia nei confronti di non so chi, nei confronti di Renzi, che aveva detto di Marchionne, che aveva criticato Marchionne per il progetto Italia o come diavolo si chiama. Luca da Prato, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. E l'altra sera affermò Cruciani che Marchionne è... Marchionne, no Marchionne, Marchionne è un giocatore di pallone, Marchionne. Marchionne, che sia un grande rivoluzionario Marchionne. Ma sì, ma io parlavo delle sue posizioni, sull'industria, sulla Fiat, eccetera, eccetera, lo riconfermo. Ma io non lo ritengo affatto. E vabbè, pazienza. Perché... sinceramente chi ha una residenza in un altro stato, paga le tasse su un altro stato, quale esempio da a chi risiede in Italia, a chi lavora per lui? Non è certo un esempio. Sì, però scusi, adesso, questa è la posizione di Parenzo, e va bene, abbiamo capito, è residente in Svizzera, eccetera, eccetera, però adesso non è che dobbiamo ogni volta mettere questa cosa come premessa, io sto parlando di un'altra cosa, non la residenza di Marchionne, di cui francamente a me non frega assolutamente nulla, niente. Beh, ogni manager di una multinazionale può risiedere dove vuole, dove trova più conveniente risiedere, non ci trovo niente di strano e niente di male, assolutamente non ci trovo nulla di strano e niente di male. Paolo da Firenze, buonasera. Paolo da Firenze. Sì, buonasera. Dica, come no? No, perché se io ho la possibilità di risiedere in Svizzera, perché pago di meno le tasse, vado a risiedere in Svizzera. Si tratta di una... Ma è una multinazionale, non è italiana, è una multinazionale che vende in tutto il mondo, che ha sedi in tutto il mondo, di che parli? Non è un'azienducola. Pagare di... le tasse in questo paese. Oddio mio, mamma mia, che posizioni, che posizioni demagogiche, guarda, che posizioni demagogiche. Demagogiche. Dai. Tra l'altro lui è italiano, tra l'altro. Eh? Tra l'altro lui è italo-canadese. E vabbè, allora. È italiano, capito? E allora. E come cosa mai vuol dire? In Svizzera? Come mai? Ma ognuno, ma non è che è illegale, non è che è un bandito che risiede in Svizzera perché deve sfuggire alla polizia. Risiede in Svizzera perché la vita lo ha portato lì. Allora qual è il problema? Non perché ho capito. Le tasse lì costano molto meno. E allora cosa? Io parlo di etica dell'impresa. Ma qual è etica dell'impresa? Di fa, dici un sacco di stupidaggini. E anche di chi la fa. Dici un sacco di stupidaggini. L'etica dell'impresa. Non può risiedere in Svizzera, Marchionne. Ha deciso lui che non può risiedere in Svizzera. No, ho detto certo che dai, su, Francesco dalla provincia di Varese. È evidente che può risiedere in Svizzera. Questo è evidente, se no. Francesco dalla provincia di Varese. Buonasera, mi sente? Dica. Senta, io volevo solamente fare, buonasera a voi e ai telespettatori, io volevo solo fare un breve annuncio a tutti i telespettatori per dire la spina la deve staccare il Presidente della Repubblica, non Formigoni che con la sua etica o con le regole della politica dice beh adesso se casco io casca il Piemonte e casca il Veneto, perché i ragazzi, le nuove generazioni, e qui va fatto un cambio generazionale. No, ma su questo lei ha perfettamente ragione, Francesco, certo. Le frasi di Formigoni sulla Lombardia e sul Veneto sono assurde, se sul Veneto e sul Piemonte sono assurde, non assurde. Lì ci sono giunte, lì ci sono giunte che hanno i loro problemi naturalmente, ma non sono certamente nelle stesse condizioni della giunta Formigoni. Cruciani, non si capisce perché, non si capisce perché debbano cadere le giunte di Cote, di Zaia. Certo, c'è un accordo politico generale, c'era stato. A me non me ne frega niente dell'accordo. Lui non può lanciare questi messaggi subdoli e tra virgolette, mi passi il termine, come dire, mafiosi, per dire vabbè, messaggi mafiosi, ma sono discorsi politici, sulla mafia non c'entra, il ritratto non c'è. E comunque la spina la dovrebbe staccare il Presidente della Repubblica, che ha i poteri e le facoltà per farle. Che c'entra il Presidente, della Repubblica? Non può fare, per derghetto azzera lui la giunta. Ma quando? Ma che dice Francesco? Ma quando mai? Ma dice delle cose inaudite, su. Allora andiamo avanti così. E poi, scusi. Si possono sciogliere i comuni, e tra l'altro lo decide il Ministero dell'Interno, per infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Non credo che si possa sciogliere una giunta regionale per infiltrazione della criminalità organizzata. Non mi risulta se è quello che lei vuole dire. Non mi risulta se è questo che lei vuole dire. Però lei conviene con me che il messaggio dato non è sicuramente di buon esempio ai giovani. Questo vabbè, ma quello sono banalità, su. Beh, è banalità. Ma allora è banalità, ma parliamo? Che vuol dire messaggio ai giovani, su? Ma, ma certo, che cosa fare? Ma scusi Francesco, allora... però, ma secondo lei è un messaggio positivo il fatto che ci possano essere delle infiltrazioni della criminalità organizzata in una regione? È un messaggio positivo? E allora, no. Che cosa lo dice a fare? Ma neanche dire se casco io cascano gli altri. Vabbè, ma l'abbiamo già detto, ma è banale dire che non c'è un bel messaggio ai giovani se un assessore regionale ha dei colloqui con gente che poi successivamente dice adesso di non conoscere o comunque di non conoscere come 'ndranghetisti. Certo che non è un bel esempio, ma insomma dirlo è abbastanza scontato. Ci ha chiamato per chiarire qualche cosa il responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, Nico Stumpo. Buonasera. Buonasera. Come va? Buonasera. Cosa voleva precisare, signor Stumpo? Bah, niente di, cioè, volevo sentito perché come mi capita quando è possibile ascolto la vostra trasmissione. Sì. Soltanto alcuni aspetti. La discussione tra me e Parenzo piuttosto accesa sulla partecipazione al secondo turno. Sì, ma cioè, nel senso che secondo me è bene chiarirla perché c'è un tema. Le primarie non sono un giocattolo col quale si dà la possibilità ai bambini di giocare, ma sono una cessione di sovranità che un soggetto politico fa ai cittadini. Naturalmente questa cessione di sovranità noi lo facciamo a quelli che si riconoscono nel nostro campo o che comunque dicono di riconoscersi. In quel momento però, in quel momento. Esattamente, come lei ha detto a quell'ascoltatore che ha votato per il centrodestra, nessuno di noi gli farà il DNA e nessuno di noi gli impedirà di votare. Questo è importante. Per esempio io l'ho dichiarato più volte, sì. Forse lei lo sa, se segue questa trasmissione, ho votato un sacco di cose nella mia vita, una sola volta ho votato Partito Democratico, dunque non sono un perfetto elettore di centrosinistra, non è il mio DNA né tessere di nessun partito, peraltro, eccetera. Possono legittimato a partecipare perché voglio partecipare alle primarie, sì o no? Assolutamente sì. Benissimo. Nel senso che noi vogliamo che le primarie siano un po' come le elezioni normali. Alle elezioni normali chi è che ha diritto di voto? I cittadini italiani che sono dentro le regole, se perfetto, così si può dire, e che abbiano compiuto 18 anni. Allora io le faccio un'altra domanda. Un attimo solo, prego. I cittadini italiani. Sì, sì. Noi come PD, ma adesso nelle ultime ore, poi domani lo decideranno diciamo la coalizione, come PD proponiamo che abbiano diritto di voto tutti i cittadini italiani e anche i migranti, aggiungiamo, in regolare possesso del documento di soggiorno e della carta d'identità, mi attesti diciamo la veridicità, tutti i cittadini italiani che si riconoscono nel centro-sinistra e che decidono di sottoscrivere un appello. E vabbè. Fin qui io lo trovo anche giusto, che nella cessione di sovranità... Sì, io lo trovo inutile, francamente. Vabbè, però, perché è inutile? È un atto formale, che, insomma, vabbè, ci può stare, però lo trovo cioè, nel senso che chiunque, anche se uno non è convinto di quelle cose e però vuole votare lo stesso, anch'io, per esempio, glielo dico molto chiaramente, non so se alle elezioni generali voterei per un centro-sinistra se vincesse Bersani, non lo so, può darsi anche di sì, non lo so. Dunque vabbè, questo sta alla sua coscienza, però, di voler scegliere una cosa e non voler partecipare. Ognuno poi va a casa con la sua coscienza. Certo. Io vado con la mia e lei con la sua, cioè non è che ci abbiamo problemi in questo, giusto? Io però apro il mio partito ai cittadini italiani, gli cedo sovranità. Naturalmente, siccome voglio che quella sia una giornata seria, però, voglio che ci siano delle regole chiare. Per esempio, le faccio rispetto a quello che diceva lei sul doppio turno. Sì. In Italia al doppio turno hanno diritto di voto tutti quelli che avevano compiuto 18 anni al primo turno, non tra il primo e il quello, secondo. Quello è un dettaglio. Non è un dettaglio, perché io ho la necessità, perché la cosa sia seria, che si definisca qual è la platea, diciamo. Benissimo, però lei sa benissimo che al secondo turno alle elezioni, anche in Italia, io ho fatto i casi della Francia, ma in realtà esistono anche il doppio turno in Italia, nel caso dei... Italia, dei sindaci, infatti, eccetera, eccetera, infatti, al secondo turno possono partecipare anche quelli che non hanno partecipato al primo. Ma è una cosa diversa, lei non deve confondere le elezioni generali con le elezioni. Ma lei però mi ha fatto l'esempio delle elezioni generali prima. Sì, infatti, prendo le leggi delle elezioni generali e le utilizzo su un sistema che dà, come dire, spalmare su una logica di una coalizione, perché da me non può venire a votare, questo sicuramente no, Silvio Berlusconi. che un cittadino italiano. E no, ho capito, ma Berlusconi non ci viene nemmeno perché è troppo esposto. Ma non c'entra, non può venire nessuno dei parlamentari, perché se riconosciuti glieli impediamo, proprio come diritto. Vabbè, ma se uno si mette il cappello e voi non lo riconoscete, che succede? Se si mette il cappello toglie prima la carta d'identità, quindi lo riconoscono. Non viene a votare nessuno. Vabbè, non è che ci sono tutti un consigliere comunale del PDL di un po'. Consigliere comunale del PDL di un comune. Vabbè, quello è più riconosciuto. Quello è più riconosciuto. Allora, poi i furbi esistono. Cioè, l'importante è che io che organizzo... Sì, però lei non va al punto, scusi, stupilo, io capisco tutto, però lei non va però al punto fondamentale. Perché uno che non si è registrato al primo turno, me lo dice dopo il traffico, perché uno che non si è registrato al primo turno, perché per mille motivi, perché gli interessa solo la corsa a due, perché non vuole, perché non ha avuto tempo, perché stava male, eccetera, perché... in quella settimana di tempo tra primo e secondo turno non può andare, a me pare francamente una cosa inspiegabile. Lei invece adesso mi spiegherà perché è coerente. Caro Parenzo, beh, forse c'è una svolta, Una svolta a cui abbiamo contribuito anche noi, pizzicando come tutti in queste ore, peraltro, però bisogna anche cogliere i momenti giusti, siamo stati anche un po' fortunati in questo, signor Salvini, il quale ha detto, insomma, Formigoni è arrogante, eccetera, eccetera, e insomma, se ne deve andare, lo mandiamo via noi in caso, Non ci sono più margini, poi vedremo i fatti, perché poi tra le parole e i fatti, come al solito, poi c'è la politica anche, perché non c'è solo la convenienza, eccetera, eccetera, c'è anche la politica, che è fatto, la politica è fatta anche di queste cose, adesso non bisogna nemmeno mettere in croce troppo la Lega, è normale che la Lega, che è al governo della Lombardia da tanto tempo, eccetera, sia un po' incerta su quello che deve fare, c'è l'elemento dell'andrangheta che è fondamentale, però poi votare quando, come, perché, le alleanze, sono tutte cose che la politica considera, magari la gente ormai le considera delle stupidaggini, però ci sono pure queste cose. Ci ha contattato Nico Stumpo, della responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico. Però fammi dire una cosa prima, sì, perché Stumpo, tra l'altro, è una bravissima persona, molto seria. Tu dici sempre che sono tutte brave persone, per carità, va benissimo. Vabbè, comunque, tutte, allora... Non tutte, no, però lei, ho visto questa cosa qui, non l'abbiamo commentata prima, l'Alessandra Mussolini, l'onorevole Mussolini. Che ha fatto l'onorevole Mussolini? Che vuole andare in visita nella casa protetta a trovare il piccolo bambino. Non è il caso, dici tu, ma no? Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, ma perché uno deve andare devi fare una passerella da show e andare? Già c'è una tragedia in corso, già c'è un caso di cronaca drammatico, già i politici sono in generale abbastanza malvisti, e in più devi andare lì e farti aprire e dire io sono l'onorevole Mussolini, mi dovete aprire. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? No, hai ragione su questo. Ma non c'è il senso del ridicolo. Stumpo, allora mi spiega perché. No, ma hai ragione, perché già non è sufficiente la passerella dei genitori, che io trovo vergognosa. Ma solo che vada a Scilipoti, anche no, Scilipoti è in Brasile, lascialo perdere. Magari farebbe divertire il bambino, questo è sicuro, fa divertire. Busse, ci sono Mimmo Scilipoti, un medico, il bambino scoppia a ridere, magari questo può servire, magari può servire. Stumpo? Stumpo. Anche Razzi potrebbe andare, c'è Razzi. Razzi non si diverte, il bambino con Razzi. No, Razzi è venuto. Ma non capisce quello che dice, Vabbè, voglio risolvere questa questione. Stumpo, allora, perché mi spieghi la logica del fatto che uno che, se lei è d'accordo poi, perché non lo so, che uno che non si iscrive al primo turno non può votare al secondo? Perché, te l'avevo detto prima, poi nella concitazione ti ho messo il traffico. Semplicemente perché in tutte le elezioni al secondo turno partecipa una platea certa, alle elezioni generali partecipano tutti quelli che hanno compiuto 18 anni. No, ma alle elezioni generali, però ripeto, è l'esempio sbagliato, Stupo, perché al secondo turno partecipano pure quelli che non partecipano al primo alle elezioni generali. Hanno acquisito il diritto prima, non che non abbiano partecipato, perché tutti i cittadini... Ma voi volete fregare Renzi con questo, dai, su. Ma no, ma perché lei... sta facendo una cosa, l'ha detto lei, non l'ho detto io, che lei vorrebbe votare alle primarie e sostenere un candidato, ma non sostenere il centro-sinistra. No, non ho detto questo. No, non ho detto. No, Stumpo. Io non ho detto questo. Io ho dichiarato. No, mi faccia finire, però. Sì. Io ho dichiarato di votare per Bersani, ma che nel caso dovesse vincere chiunque. Sì, ma lei è un uomo di partito, è diverso. Lei è responsabile dell'organizzazione. Ma è una persona seria, non un uomo di partito. Cioè, quando uno no, fa ma scelta, che c'è? La ma io non ho mica detto che non è, lei non è serio. Scusi, stumpo. Lei è responsabile dell'organizzazione del PD. È normale che se vince Renzi, lei voterà per il Partito Democratico, altrimenti aprirebbe un caso politico. Il problema è diverso. Io sono un elettore che non ho la targa qua, centrodestra e centrosinistra. Esatto. Voglio andare a votare alle primarie. Voto ma Renzi. Lei è giusto. Votare per cosa? Per Renzi. Per Renzi. Voglio andare a votare la primaria per Matteo Renzi. Ma Renzi è un sindaco del PD. Ma che c'entra? Ma io mica ci ho scritto, no, ma non ho scritto del PD ed è un candidato del centro-sinistra. Ma infatti non è un candidato esterno. Benissimo, benissimo. Io se vince vincesse Renzi o vincesse Bersani, se lei decide di partecipare alle primarie del centro-sinistra, perché limita la sua partecipazione successiva al centro-sinistra rispetto no, a... No, io non ho detto questo, ho detto che se vince Renzi le primarie... No, ho detto, se vince Renzi le primarie sono certo di andare a votare Renzi anche alle elezioni politiche. Se dovesse vincere Bersani non lo so, ma perché? Ma, perché? Ma lei non vota Renzi. Ma non c'è un timbro, no, non c'è un timbro. Ma si votano anche le persone, stumpe, si votano anche le persone, lei lo sa bene che si votano le coalizioni e i partiti, non si vota... Né con questa legge. Non è vero, si votano anche le persone. Lei lo sa bene che si votano anche le persone, ma contano anche sì, le persone. Così però. Vabbè, non comunque è, così. È una bella discussione, la riprenderemo. La riprenderemo volentieri. Grazie, grazie. Grazie. Davide, ci salutiamo, ci sentiamo lunedì 18:30. Davide da Venezia, Giovanni da Milano. La Zanzara vive e lotta insieme a voi, non molliamo. In questo governo fu collocato là per risolvere alcuni assunti economici che a oggi non conseguimmo risolvere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Para analisar as relações Brasil-Itália, Domênico Silipotti.